Capitolo 11. Novembre, fagioli alla Tescucana. Ingredienti: fagioli, carne di maiale, ciccioli, peperoni, cipolla, formaggio grattugiato, lattuga, avocado, ravanelli, peperoncini, tornaciles e olive. Preparazione: per cominciare, si dà una prima bollita ai fagioli con un pizzico di techeschite, una sostanza salina presente nel fondo dei laghi prosciugati dell'altopiano centrale del Messico. E dopo averli lavati, si mettono nuovamente a cuocere insieme ai pezzetti di carne di maiale e ai ciccioli. Mettere a cuocere i fagioli fu la prima cosa che fece Tita alzandosi alle 5 del mattino. Quel giorno erano invitati a pranzo John e zia Mary, venuta appositamente dalla Pennsylvania per partecipare alle nozze di Tita e John. La zia Mary era ansiosa di conoscere la promessa sposa del suo nipote preferito, ma sarebbe stato indiscreto, viste le condizioni di salute di Pedro, farlo prima. Attesero quindi una settimana in modo che lui si rimettesse prima di venire in visita ufficiale. Tita era molto amareggiata perché non aveva potuto annullare la presentazione, ma la zia di John aveva già 80 anni ed era venuta da molto lontano solo con l'idea di conoscerla. Preparare un buon pranzo per zia Mary era il minimo che Tita potesse fare, per la dolce vecchietta e per John, al quale purtroppo non aveva altro da offrire che la notizia che non si sarebbe sposata con lui. Si sentiva completamente svuotata, come un piatto su cui rimangono soltanto le briciole di una torta prelibata. Cercò delle provviste nella dispensa, ma non ce n'erano. Non sapeva proprio cosa cucinare. Il soggiorno di Gertrudis alla fattoria aveva esaurito tutte le scorte. Le uniche cose che rimanevano nel granaio, a parte il mais per fare delle buone tortillas, erano riso e fagioli. Ciò nonostante, con buona volontà e inventiva, avrebbe potuto preparare un pranzo dignitoso. Un menù a base di riso con banane e fagioli alla Tescucana non le avrebbe fatto fare brutta figura. Siccome i fagioli non erano freschi come le altre volte, prevedendo che avrebbero impiegato più tempo del solito a cuocere, li mise sul fuoco con un certo anticipo. E mentre cuocevano si mise a pulire i peperoni. Dopo aver tolto i semi e la parte bianca ai peperoni, si mettono a bagno in acqua calda e poi si tritano. Una volta messi a bagno i peperoni, Tita preparò la colazione di Pedro e gliela portò in camera. Le ustioni erano quasi guarite. Tita non aveva mai smesso di applicargli la corteccia di tepesco vite e con questo aveva evitato che a Pedro rimanessero delle cicatrici. John aveva approvato appieno la cura. Egli stesso, curiosamente, continuava da tempo gli esperimenti con questa corteccia che sua nonna, Luce dell'Alba, gli aveva insegnato a usare. Pedro aspettava Tita con ansia. Oltre agli squisiti pasti che gli portava quotidianamente, un altro elemento di importanza rilevante contribuiva alla sua stupefacente ripresa: le conversazioni che intratteneva con lei dopo aver mangiato. Quella mattina, però, Tita non aveva tempo da dedicargli. Voleva preparare il pranzo per John nel miglior modo possibile. Pedro, folle di gelosia, le disse: «Ciò che dovresti fare invece di invitarlo a mangiare sarebbe di dirgli una buona volta che non ti sposerai con lui perché aspetti un figlio da me». «Non posso dirglielo, Pedro». «Cosa? Hai paura di addolorare il tuo dottorino?» «Non è che io abbia paura, solo che sarebbe molto ingiusto trattare John in questo modo. Si merita tutto il mio rispetto e per parlargli devo attendere il momento adatto». Se non lo farai tu, lo farò io. No, non gli dirai nulla. In primo luogo perché non te lo permetto e in secondo perché non sono incinta. Cosa? Che stai dicendo? Quello che avevo preso per una gravidanza era solo un ritardo del ciclo, ma ora tutto si è normalizzato. Ah, è così. Ora capisco. Non vuoi parlare con John perché sei indecisa se rimanere con me o sposarti con lui, vero? Ormai non sei più legata a me, io sono un povero malato. Tita non capiva questo atteggiamento di Pedro. Sembrava un bambino piccolo che avesse messo il broncio. Parlava come se dovesse rimanere invalido per il resto dei suoi giorni, ma questo non era il suo caso. In poco tempo si sarebbe completamente ristabilito. Senza dubbio, l'incidente subito gli aveva disturbato la mente. Forse la sua testa si era riempita del fumo uscito dal suo corpo quando aveva preso fuoco. E come il pane fritto altera e rende cattivo l'odore di una casa, così il suo cervello affumicato emetteva neri pensieri e rendeva spiacevoli le sue parole, abitualmente gentili. Non era possibile che dubitasse di lei, e neppure che si comportasse in contrasto con il decoro, che era sempre stato una delle sue preoccupazioni preoccupazioni principali. Uscì dalla camera molto infastidita e Pedro, prima che chiudesse la porta, le gridò che non voleva che lei continuasse a portargli da mangiare, che mandasse Cencia, così aveva tutto il tempo di vedere John senza alcun problema. Tita entrò in cucina arrabbiata e si mise a far colazione. Non l'aveva ancora fatta perché per lei prima veniva l'accudire Pedro e poi il lavoro di ogni giorno. E tutto questo a che scopo? Perché Pedro, invece di tenerne conto, reagisse come aveva fatto, offendendola con le parole e con il comportamento? Pedro era proprio diventato un mostro di egoismo e di gelosia. Si preparò dei chilaquiles e si sedette a mangiarli al tavolo di cucina. Non le piaceva mangiare da sola, anche se ultimamente non le era rimasta altra soluzione perché Pedro non poteva muoversi dal letto. Rosaura non voleva uscire dalla sua camera dove si era chiusa a doppia mandata rifiutando il cibo e Cencia, dopo aver avuto il primo figlio, si era presa qualche giorno di riposo. Di conseguenza i chilaquiles non avevano il sapore di sempre. Le mancava la compagnia di qualcuno. All'improvviso udì dei passi. La porta della cucina si aprì e comparve Rosaura. Vedendola, Tita rimase di stucco. Era magra come quando era ancora da sposare. Una settimana senza mangiare. Pareva impossibile che avesse perso 30 kg in soli 7 giorni, eppure era proprio così. La stessa cosa si era verificata quando era andata ad abitare a San Antonio. Era dimagrita rapidamente, ma poi le era bastato ritornare alla fattoria per ingrassare di nuovo. Rosaura entrò altezzosa e si sedette di fronte a Tita. L'ora di affrontare la sorella era giunta, ma Tita non aveva la minima intenzione di iniziare la discussione. Ritirò il piatto, beve un sorso di caffè e incominciò a fare meticolosamente a pezzettini i bordi delle tortilla utilizzate per i chilaquiles. Si usava togliere il bordo a tutte le tortillas che si mangiavano per gettarlo alle galline. Allo stesso scopo si sminuzzava anche la mollica del pane. Rosaura e Tita si guardarono negli occhi e rimasero così, finché Rosaura non diede avvio alla discussione. Credo che abbiamo un discorso in sospeso, vero? Sì, credo di sì, e credo sia dal giorno in cui ti sei sposata con il mio fidanzato. Va bene, cominciamo pure da lì se vuoi. Tu hai avuto un fidanzato senza averne il diritto. Non ti spettava averlo. Secondo chi? Secondo la mamma o secondo te? Secondo la tradizione di famiglia che tu hai infranto. E che infrangerò quante volte sarà necessario finché esisterà questa maledetta tradizione. Io avevo lo stesso tuo diritto di sposarmi, semmai eri tu quella che non aveva il diritto di intromettersi tra due persone che si amavano. Beh, non così profondamente. Guarda infatti come Pedro ti ha cambiata con me alla prima occasione. Io l'ho sposato perché lui l'ha voluto, e se tu avessi avuto un briciolo di orgoglio te lo saresti dovuto scordare per sempre. Ebbene. Per tua informazione, si è sposato con te soltanto per rimanermi accanto. Non ti amava e tu lo sapevi molto bene. Senti, è meglio non parlare più del passato. A me non importano i motivi per cui Pedro mi ha sposato. Mi ha sposato e basta. E io non permetterò che voi due mi prendiate in giro. Sentimi bene, non sono disposta ad accettarlo. Nessuno ti sta prendendo in giro, Rosaura, non capisci niente. Ah no? Figuriamoci, capisco benissimo la parte che mi fai fare quando tutta la gente della fattoria ti vede piangere accanto a Pedro mentre gli tieni amorevolmente la mano. Sai quale parte è? Quella del pagliaccio. Davvero non hai timore di Dio? A me è del tutto indifferente se poi tu e Pedro andrete all'inferno per tutti quegli sbaciucchiamenti che vi date in ogni angolo. Inoltre, d'ora innanzi potrete baciarvi quanto volete, se nessuno vede, a me non importa, perché Pedro ha bisogno di farlo con la prima che gli capita. Per quanto mi riguarda, non mi metterà più una sola mano addosso. Io la dignità ce l'ho. Che si cerchi una qualunque, una come te, per le sue sconcezze. Ma è sicuro che in questa casa io continuerò a essere la moglie. E anche agli occhi degli altri. Perché il giorno in cui qualcuno vi dovesse vedere e dovessi, per colpa vostra, cadere nel ridicolo, ti giuro che ve ne pentireste. Gli urli di Rosaura si confondevano con il pianto insistente di speranza. Da un po' di tempo la bambina piangeva. Ma il tono dei singhiozzi aveva continuato a salire gradualmente fino a raggiungere livelli insopportabili. Di certo aveva fame. Rosaura si alzò lentamente e disse: Vado a dare a mangiare a mia figlia. D'ora in avanti non voglio che sia tu a farlo. Potresti macchiarla di fango. Da te riceverebbe soltanto cattivi esempi e cattivi consigli. Oh, di questo puoi esserne certa. Non permetterò che tu avveleni tua figlia con le idee della tua mente malata, né lascerò che tu le rovini la vita costringendola a seguire una tradizione stupida. Ah sì? E come pensi di impedirlo? Credi forse che ti permetterò di starle vicino come hai fatto finora? Bada, cara mia, che non sarà così. Hai mai visto permettere alle donne di strada di stare vicine a bambine di famiglie per bene? Oh, non dirmi che credi davvero che la nostra sia una famiglia per bene. La mia piccola famiglia lo è, e perché continui a esserlo ti proibisco di avvicinarti a mia figlia, o mi vedrò costretta a buttarti fuori da questa casa che ho ereditato dalla mamma, hai capito? Rosaura uscì dalla cucina con la pappa che Tita aveva preparato per Esperanza e salì a darle da mangiare. Non avrebbe potuto fare a Tita niente di peggio. Sapeva di ferirla nel profondo. Esperanza era una delle cose più importanti al mondo per Tita. Che dolore provava mentre spezzava l'ultimo pezzo di tortiglia che aveva in mano. Desiderò con tutto il cuore che la sorella scomparisse nelle viscere della terra. Era quello che si meritava. Mentre discuteva con Rosaura, non aveva smesso di sminuzzare i pezzi di tortillas che aveva ridotto in pezzetti minuscoli. Tita li mise con furia in un piatto e uscì a gettarli alle galline. Poi avrebbe continuato nella preparazione dei fagioli. Tutto lo stenditoio del cortile era pieno degli splendenti pannolini di Esperanza. Erano pannolini bellissimi. Aveva trascorso interi pomeriggi a ricamarne gli orli insieme alle altre donne della casa. Il vento li cullava e sembravano onde spumeggianti. Tita distolse gli occhi dai pannolini. Doveva dimenticare che la bambina stava mangiando per la prima volta senza di lei. Entrò in cucina e continuò a preparare i fagioli. Si frigge la cipolla tritata nel burro. Quando è rosolata si aggiungono i peperoni tritati e il sale. Quando il soffritto è pronto si uniscono i fagioli, la carne e i ciccioli. Era inutile cercare di dimenticare Speranza. Quando Tita buttò i fagioli nella pentola, ricordò quanto piacesse alla piccola il brodo di fagioli. Glielo dava mettendola a sedere sulle sue ginocchia, le legava un grande tovagliolo al collo e la imboccava con un cucchiaino d'argento. Che gioia aveva provato il giorno in cui aveva sentito il cucchiaino battere sulla punta del primo dente di Speranza. Ora gliene stavano spuntando altri due. Tita stava molto attenta a non farle male mentre le dava la pappa. Sperava che Rosaura facesse lo stesso, ma cosa ne sapeva lei che non l'aveva mai fatto prima? Non avrebbe saputo neppure preparare il bagnetto con acqua di foglie di insalata per conciliarle un tranquillo sonno notturno, né avrebbe saputo vestirla, né baciarla, né abbracciarla, né cullarla come faceva lei. Tita pensò che forse la cosa migliore sarebbe stata quella di lasciare la fattoria. Pedro l'aveva illusa. Rosaura, con lei fuori di casa, avrebbe potuto ricostruire la sua vita e la bambina si sarebbe prima o poi abituata alle cure della sua vera madre. Se Tita continuava ad affezionarsi alla bambina ogni giorno di più, avrebbe sofferto come le era accaduto con Roberto. Non era il caso, questa non era la sua famiglia e da un momento all'altro gliel'avrebbero potuta togliere con la stessa facilità con cui si toglie una pietruzza dai fagioli quando si puliscono. John, invece, le offriva di formare una nuova famiglia che nessuno le avrebbe mai potuto togliere. John era un uomo meraviglioso e le voleva un gran bene, non le sarebbe stato difficile, con il tempo, innamorarsi di lui. Non le fu possibile continuare con i suoi pensieri, perché le galline avevano incominciato a fare una vera gazzarra in cortile. Sembrava fossero impazzite o che avessero il complesso del gallo da combattimento. A colpi di becco tentavano di portarsi via gli ultimi pezzi di tortiglia rimasti per terra. Saltellavano e svolazzavano disordinatamente ovunque, aggredendosi con violenza. Tra tutte ce n'era una, la più feroce, che con il becco strappava gli occhi a quante più poteva, spruzzando di sangue i candidi pannolini di Esperanza. Tita, spaventatissima, tentò di fermarle tirando nel mucchio un secchio d'acqua, ma ottenne solo di renderle più aggressive e che la zuffa salisse di tono. Formarono un cerchio attorno al quale si inseguivano vertiginosamente. All'improvviso le galline vennero inesorabilmente intrappolate dalla forza, da loro stesse prodotta in quella folle corsa, e non poterono più sottrarsi al mulinello di piume, di polvere e di sangue che cominciava a girare e rigirare via via con maggior forza sulle loro teste. Il mulinello arrivò a trasformarsi in un potente tornado che radeva al suolo tutto ciò che trovava al suo passaggio, a partire dagli oggetti più vicini, in questo caso i pannolini di Speranza stesi in cortile. Tita cercò di salvare alcuni pannolini, ma mentre stava per prenderli fu trascinata dalla forza del potente vortice che la sollevò parecchi metri da terra, le fece fare tre infernali piroette tra la furia delle beccate e e infine la scagliò con impeto verso l'estremità opposta del cortile, dove cadde come un sacco di patate. Tita rimase a terra a bocconi, spaventatissima. Non voleva muoversi. Se il vortice l'afferrava di nuovo, correva il rischio che le galline le cavassero un occhio. Quel gorgo di galline perforò la terra del cortile, scavando un pozzo profondo attraverso il quale la maggior parte di esse sparì da questo mondo. La terra le inghiottì. Da questa lotta uscirono vive soltanto 3 galline spennate e guerce. Di pannolini non ne era rimasto nessuno. Tita, scrollandosi di dosso la polvere, ispezionò il cortile. Delle galline non c'era più traccia. Ciò che le dispiaceva maggiormente era la sparizione dei pannolini che aveva ricamato con tanto amore. Sarebbe stato necessario sostituirli. Ormai, a pensarci bene, tutto questo non la riguardava più. Rosaura non voleva che lei si avvicinasse a Speranza, vero? Allora che si preoccupasse lei di risolvere i fatti suoi. E Tita si sarebbe occupata del suo problema più immediato, aver pronto il pranzo per John e zia Mary. Entrò in cucina e si dispose a finire di preparare i fagioli. Ma quale non fu la sua sorpresa nel vedere che, nonostante fossero da parecchie ore sul fornello, non erano ancora cotti. Stava accadendo qualcosa di anormale. Tita ricordò che Nacha le diceva sempre che se 2 o più persone discutono mentre stanno preparando tamales, questi rimangono crudi. Potevano passare giorni e giorni senza che cuocessero perché i tamales erano arrabbiati. In questi casi era necessario cantare loro una canzone affinché si rasserenassero e potessero cuocere. Tita immaginò che ai suoi fagioli fosse capitata la stessa cosa. Avevano assistito infatti al bisticcio con Rosaura. Allora non le restò altra soluzione che sforzarsi di modificare il suo stato d'animo e cantare con amore una canzoncina ai fagioli, perché aveva pochissimo tempo per ultimare il pranzo dei suoi invitati. A questo scopo la cosa più conveniente era cercare nella memoria un momento di enorme felicità e riviverlo mentre cantava. Chiuse gli occhi e cominciò a intonare un valzer che diceva: «Da quando ti ho visto sono felice, ti ho donato il mio amore e ho perduto l'anima». Le tornarono in mente pressanti le immagini del suo primo incontro con Pedro nello stanzino buio, la passione con cui Pedro l'aveva spogliata, facendole ardere la pelle con le sue mani incandescenti. Il sangue le pulsava nelle vene, il cuore lanciava fremiti di passione. A poco la frenesia aveva lasciato posto a una tenerezza infinita che era riuscita a placare i bollenti spiriti. Mentre Tita cantava, il brodo di fagioli bolliva con foga. I fagioli lasciarono che il liquido in cui nuotavano li penetrasse e iniziarono a gonfiarsi fin quasi a scoppiare. Quando Tita aprì gli occhi, assaggiò un fagiolo per vedere se era cotto e constatò che era proprio al punto giusto. Questo le avrebbe dato il tempo sufficiente per rimettersi in ordine prima dell'arrivo di zia Mary. Riconciliata con la vita, lasciò la cucina e andò in camera e a farsi bella. La prima cosa che dovette fare era lavarsi i denti. Il ruzzolone che aveva fatto quando era stata buttata a terra dall'urto, dal vortice delle galline, le aveva riempito la bocca di terra. Prese una dose di polvere dentifrice e se li spazzolò con vigore. A scuola le avevano insegnato a preparare questa polvere. Si confeziona mescolando mezza oncia di cremor tartaro, mezza di zucchero e mezza di noccioli di hivia e 2 dracme di gigli di Firenze e di sangue di drago. Si riducono in polvere tutti gli ingredienti e si amalgamano bene. Incaricata di fare questa operazione era la maestra Jovita. Era stata la sua insegnante per 3 anni di fila. Era una donna piccola e minuta. Tutti la ricordavano, non tanto per le conoscenze che aveva trasmesso ai suoi scolari, quanto perché era un personaggio particolare. Raccontano che fosse rimasta vedova a 18 anni con un figlio. Non aveva mai voluto dare un patrigno al figlio, quindi aveva volontariamente trascorso una vita intera in assoluto nubilato. Chissà però fino a che punto era convinta di questa risoluzione e chissà quanto questo aveva influito negativamente su di lei. La poveretta, infatti, con gli anni era andata perdendo la ragione. Lavorava giorno e notte per tenere a freno i cattivi pensieri. La sua frase preferita era «L'ozio è il padre dei vizi» e così non riposava un attimo in tutta la giornata. Lavorava sempre di più e dormiva sempre di meno e con il tempo il lavoro domestico non bastava più a placare il suo animo. Cosicché usciva in strada alle 5 del mattino a scopare il marciapiede di fronte a casa, il suo e quello delle vicine. In seguito Estese il suo raggio d'azione ai marciapiedi dei quattro isolati che circondavano la sua casa e poi oltre, fino a spingersi a scopare tutta Piedras Negras prima di andare a scuola. A volte le restavano tra i capelli tracce di immondizia e i bambini la prendevano in giro. Tita, guardandosi allo specchio, scoprì che la sua immagine somigliava a quella della sua maestra. Forse era soltanto per le piume che aveva tra i capelli per via del ruzzolone, ma inorridì ugualmente, non voleva diventare un'altra Jovita a nessun costo. Si scrollò le piume, si spazzolò con energia, si pettinò e scese a ricevere John e zia Mary che arrivavano in quel momento. L'abbaiare di pulche annunciò la loro presenza nella fattoria. Tita li accolse in sala. Zia Mary era proprio come se l'era immaginata, una squisita e gentile signora anziana. Nonostante gli anni, il suo aspetto era impeccabile. Portava un grazioso cappello a fiori color pastello che metteva in evidenza il bianco dei capelli. I guanti erano in tinta con il colore dei capelli, candidi. Per camminare si appoggiava a un bastone di mogano dall'impugnatura d'argento a forma di cigno. La sua conversazione era molto vivace. La zia rimase entusiasta di Tita e si rallegrò ampiamente con il nipote per la felice scelta e con Tita per il suo perfetto inglese. Tita si scusò per l'assenza della sorella, che si sentiva poco bene, e l'invitò ad accomodarsi in sala da pranzo. La zia gradì molto il riso con banane fritte ed elogiò a lungo il modo in cui aveva decorato il piatto di fagioli. Per portarli in tavola si cospargono di formaggio grattugiato e si guarniscono con foglie tenere di insalata, fette di avocado, ravanelli tritati, tornaciles e olive. La zia era abituata a un altro genere di cibo, ma ciò non le impedì di apprezzare le qualità culinarie di Tita. È squisito, Tita. Molte grazie. Come sei fortunato, Johnny. D'ora innanzi sì che mangerai bene, perché Katie, a dir la verità, fa da mangiare molto male. Con il matrimonio riuscirai addirittura a ingrassare. John notò che Tita era turbata. Tita, ti succede qualcosa? Sì, ma adesso non posso dirtelo. La zia si sentirà a disagio se smettiamo di parlare inglese. John parlava in spagnolo. Le rispose: No, non preoccuparti, è completamente sorda. Allora come può partecipare così bene alla conversazione? Perché legge le labbra, ma solo in inglese, non preoccuparti. Inoltre, quando mangia non guarda in faccia a nessuno, quindi per piacere dimmi che cosa ti succede. Non abbiamo avuto tempo di parlare e le nozze saranno fra una settimana. John, credo sia meglio sospenderle. Perché? Non farmelo dire adesso. Tita, per fare in modo che la zia non notasse che stavano discutendo di un argomento abbastanza delicato, le sorrise. La zia fece lo stesso, era felicissima e tranquilla davanti al suo piatto di fagioli. Sicuro non sapeva davvero leggere le labbra in spagnolo, poteva parlare con John senza pericolo. John ritornò sull'argomento. Non mi ami più? Non lo so. Com'era difficile per Tita continuare a parlare dopo aver visto il gesto di dolore che John aveva fatto e che subito aveva tentato di controllare. Nel periodo in cui sei stato via ho avuto rapporti con un uomo del quale sono stata sempre innamorata e ho perso la verginità. Per questo non posso più sposarmi con te. Dopo un lungo silenzio, John le chiese: Sei più innamorata di lui che di me? Non posso risponderti perché non lo so. Quando tu non sei qui, è lui che amo, ma quando ti vedo tutto cambia. Vicino a te mi sento tranquilla, sicura, in pace, ma non so, non so. Scusami se ti dico tutto questo. Due lacrime solcarono le guance di Tita. Zia Mary le prese la mano e, profondamente commossa, le disse in inglese: Che bello vedere una donna innamorata che piange di commozione. Anch'io l'ho fatto molte volte quando stavo per sposarmi. John capì che queste parole avrebbero potuto far sì che Tita scoppiasse in un pianto dirotto e che la situazione diventasse incontrollabile. Allungò la mano, prese quella di Tita e con un sorriso sulle labbra per tranquillizzare la zia le disse: Tita, non mi importa quello che hai fatto. Ci sono delle azioni nella vita alle quali non bisogna dare troppo peso se non modificano ciò che è essenziale. Quanto mi hai detto non mi fa cambiare idea. E ti ripeto che sarai felice di essere il compagno della tua vita. Ma voglio che tu rifletta bene se quell'uomo sono io oppure no. Se la tua risposta è affermativa, celebreremo le nozze tra alcuni giorni. Se no, sarò io il primo a congratularmi con Pedro e a chiedergli che ti dia il posto che ti spetta. Tita non si stupì sentendo le parole di John, erano coerenti con la sua personalità. Ma ciò che invece la stupì fu che egli sapesse perfettamente che il suo rivale era Pedro. Non aveva tenuto conto del suo grande intuito. Per Tita era impossibile continuare a starsene seduta a tavola. Scusandosi, uscì un momento in cortile e pianse fino a calmarsi. Tornò poco dopo, giusto in tempo per servire il dolce. John si alzò per avvicinarle la sedia e la trattò con la stessa gentilezza e rispetto di sempre. Era davvero un uomo meraviglioso. Com'era cresciuta la sua stima per lui e com'erano aumentati i dubbi nella sua testa. Il sorbetto di gelsomino che servì come dolce le procurò un gran sollievo. Mentre lo deglutiva, si sentiva rinfrescare il corpo e chiarire le idee. La zia impazzì per il gelato. Non aveva mai pensato che i gelsomini si potessero mangiare. Incuriosita, volle conoscere tutti i particolari della ricetta per preparare a casa sua un sorbetto uguale. Tita, con molta calma, perché la zia potesse leggere sulle sue labbra con chiarezza, le fornì la ricetta. Si pesta un mazzolino di gelsomini e si mette in 3 quarti yost di acqua con mezza libra di zucchero, rimestando bene. Quando lo zucchero è ben sciolto, si filtra il tutto attraverso una tela fitta e si mette a raffreddare nella gelatiera. Il resto del pomeriggio lo trascorsero molto gradevolmente. Quando John si accomiatò, fece a Tita il baciamano e le disse: «Non voglio essere insistente, voglio solo assicurarti che al mio fianco sarai felice». «Lo so». Certo che lo sapeva. E certamente ne avrebbe tenuto conto prima di prendere la decisione definitiva, quella che avrebbe determinato il suo futuro. Continua. Prossima ricetta: peperoni in salsa di noci.